189. Zucchini fritti secondo. Questi riusciranno migliori e più appariscenti di quelli della ricetta antecedente. Prendete zucchini grandi e grossi da non potersi abbrancare con una mano. Sbucciateli per rendere il fritto più bello. Apriteli in due parti per il lungo e levate loro il midollo in quella parte che mostrano i semi. Poi tagliateli a strisce lunghe e sottili, larghe un dito buono, e poneteli col sale a far l'acqua, lasciandoveli per qualche ora. Quando sarete per friggerli, prendeteli su con ambe due le mani e stringeteli forte per spremerne l'acqua che ancora contengono. Poi gettateli nella farina, sciogliendoli con le dita, indi nel vagliettino e buttateli subito in padella con molto unto.